Maniera del telefono. Cavolo, se venivi te lo privi a tutti, non è un problema. Lasciate gli ridotti, luci sono un casino in questo periodo, ma di maniera dove c'è lì mezzo chilo di babacini, lasci a perdere, ma è bella, ma mille sfoglie ti ha fatto. E tanto, è così, un chilo e mezzo, mille sfoglie, cosa mille sfoglie, non i voglio mille sfoglie. Al pan di Spagna, tutta fatta a mano, chissà. No, mille sfoglie non ne mangio, non mi piace a me. A me mi piace fatta con un kermes, la crema pasticcera in mezzo. Allora, la bocca all'ingrasso, al kermes, che è un pasticcera, panna sopra, sì. E vabbè, non si vede va bene, adesso l'ho vista una grandita che è un pan di Spagna. Se non si vede, mille sfoglie che ha tratti, capito? No, va bene, kappa. Al kermes, come dici? Al kermes. Yes, è quello che fanno, che colorano le pesche, per intenderci, il color rosso. Tipo quello, là. No, a me mi piace così, assaggia la fidice, arriverà la crema pasticcera è poca e buona, amico. Infatti era buonissima, era. Capo, se hai gribata tutta, se no l'avrei portata. Io guarda, per le torte a te non vado matto. Se mi dai le paste con la crema, sì, ma le torte... Se no vai via Pascoli domani, compare già di chi si mette che fa due murito. Teni lingue. Che cosa fa Murito? Pesche che fanno loro, le pesche, la fata, la pesca. Però assaggia chi sa pesce, piena di crema dentro, di crema buona, cazzo. Oia, teni chi bappiti lì. È così che mi piace, a me cremose, infatti a me piacciono molto le frittelle, i carroncini, le ciambatte, tutte quelle con la crema mi piacciono, le pasta. Ma quelle sono le migliori, già, sono le migliori. No, ma neanche io per le torte ci vado matto, a me piacciono molto quei minion, quei piccolini, e la solita frittella, queste cose così, dai. Kappa, ma Pippo, portato l'ecla. No, sono 7:20, ero vero da qua, ecco, ricatto ancora sto TV, adesso mi preparo, vado a portarlo, vai, ne approfitto, vai, se ci siete ci aggiorniamo dopo, ok? Mi sa che fra poco vado anch'io, perché poi arriva la pizza, ce l'ho fatta a ordinarla, dopo 3 o 4 telefonate che ho fatto, cazzo sei sempre occupato, non c'è che tu vendi chi sei via Ballese, bravissimo, Christian Pizza. Tutto rione, come Oggiano, Io c'ho il telefonino di Oggiano, capito? Quando vuoi che non riprendo il telefono, siccome ce l'ha vicino alla cassa, le mando un WhatsApp. E allora già si c'è da risolvere, non c'è problema. Va bene ragazzi, dai, vado a prepararmi, ci sentiamo dopo, ok? Tanto se ci sia dopo. Sì, ok. Ma qua io sono circondato, via Valletta ce ne sono due, poi ce n'è una in via Ciglietto Carro che è il veliero, poi c'è Pizza Bis in via Florinas, poi sotto casa c'è un'altra pizzeria, lo stesso, la Croccante, tutto in pieno, ce ne sono 5 o 6. Già va bene, io ci voglio le pizzerie, nel rione ci voglio, non c'è niente da fare. È bello che lavorano tutte lavorano. La pizzeria secondo me è un investimento buono, perché anche se ce n'è molte lavorano tutte. Beh certo, ce n'è, già va bene. Dai, ci sentiamo dopo ragazzi, vado a prepararmi per portare il cucciuccio. Ciao. Ciao Cla. Buona passeggiata, avanti Antu, anche io fra poco vado. Avanti Antu. Ciao Cla, ci risentiamo alle prossimine, o dopo. Comunque già, tu assaggia quelle pesche che fa Murito, lì nella pasticceria in via Pascoli, vicino a chi sa butte verdura, già lo sai dove, che c'è la pasticceria in via Cervi, e la cosa, la rivenditore parte lì in via Pascoli, dove c'è un negozio di fiori una volta. Oh, che cosa buona! Cazzo, quelle pesche sono deliziose. Prima c'era Silano, se io lo ricordo. E io pensavo che si fosse trasferito totalmente, che avesse anche proprio la pasticceria all'interno. No, era solo la rivendita lì. Il Vino Giorgio quindi c'è sempre il Vino Mulino. Sì, che c'è, certo che c'è. E adesso è morto il padre, vero, un migliore. Di migliore Davido. Ma c'è gente che sa lavorare, l'ho presa anche lì la torta qualche volta. Certo, ma è gente che sa lavorare. È come quella torta che ho comprato io, cioè, oggi. Cioè, è gente che sa lavorare, è gente artista. Poi tutta fatta a mano, le decorazioni, le cose. Poi, sono bravissimi sono. Beh, è gente che si tramanda di generazione in generazione, addirittura i fratelli Murito sono tanti, non è uno solo, sono due o tre che fanno, ce n'è anche uno in Viale Trento. Vabbè, però sono altri, sono, però proprio visigi, sono in chi mi piace. Vabbè, lì hanno il laboratorio e poi le portano lì in via Pascoli, le portano a mangiare. C'avevo anche Villa Fiorita e faccia matrimoni e cose, non so se ce l'hanno ancora, ma penso di sì. Già me lo ricordo, sì che ce l'hanno ancora, mi sa di sì. Io facevo i matrimoni, già me lo ricordo, feste di laurea, tutte queste cose qua. In più c'avevano un salone in via Poligono, te lo dico in via Poligono che c'era un salone. Sì, sì, me lo ricordo un pochettino, non è che... ma già, cazzo, lavorano benissimo, dimmi, dove dotti di senna, le cose buone, io mi lascio perdere. Lo assaggia chi si dotti, che sono buone, è vero. C'è anche tutta la parte dei dolcini, delle cose, sono buonissimi, sono. Beh, è una vita che lo fanno quel lavoro, poi bisogna essere portati per fare questi tipi di lavoro, se no ti si brucia, ti si sbatte, invece se sai fare, se sai lavorare ti escono bene. Vabbè, io le ho viste le lavorazioni in pasticceria, come fanno a lavorare, ci sono stato, avevo un amico che aveva la pasticceria e li ho visti lavorare, c'era un periodo che avevo avuto un incidente, la notte non dormivo e andavo da loro a trovarlo. Capa, cento cose in un minuto, guarda. Cosa mi hai detto già, scusami? Ho detto che io ho visto anche come le lavorano le paste, come le formano, come fanno i croissant, tutto quanto. Sì, sì, no. No, che c'è altro è coso, i paesi sono più buoni, magari ha detto, no che vabbè martiti, ma pure col pane. Ci sono panifici qua, cazzo, che fanno pane buono a vedo, fatemi. Il fornetto, quello che c'è via Succi, se lo sai che hanno trovato il Luiso. E già lo so già, ma ce n'è anche un altro che lo fa buono, molto buono. Ma quello è artigianale, anzi lo fa per poche persone, e c'è la rivendita lì e basta, non è che lo distribuisce, lo dà a qualche negozietto e basta. Però è roba artigianale, capito? Quindi ci mettono più impegno, fanno anche le paste lì. Già lo so, ne hanno di così, come si dice? Ne hanno già dei venditori. Ne hanno, c'è dei venditori sparsi per la città. Se non è che lo stanno facendo adesso, ma lo davano a poca gente, ma a pochi negozietti. C'è quello sotto casa che ce l'ha il pane e quindi non ci vado in via Succis. Prima andavo in via Succis, però il problema era il parcheggio. Adesso l'hanno fatto sotto casa un negozietto che lo vende, capito? Sì, sì, sì. Già lo so già. No, c'hanno vari punti adesso, c'è anche uno vicino a casa qua. È buono messo bene, ma ce n'è anche un altro, ce n'è. Non mi ricordo se chiama Banco Forno, non mi ammento di cazzo di chiama. Ma buono messo bene. Vapo Forno. Qualcosa del genere. Ah, sì, ho capito di chi è. Era di un panettiere che ci portava il pane a noi, poi praticamente ha preso il lavoro e ci ha fatto il forno a conto suo, capito? Una cosa del genere ci chiama. E poi l'ho mangiato buonissimo, buonissimo. In via Fratelli Rosselli, hanno aperto, mi fai la verità, hanno aperto un panificio, hanno aperto, è lì, è di uno dei calvi, uno dei fratelli, a noi subanimi, Matteci, buono, e poi lo prendo anche da un'altra parte, lo prendo lì in via Rockefeller, quello scendendo dall'ospedale lì, che c'è un altro panificio artigianale. Poi c'è qualcuno che sta sopra Madonna, non si capisce né uno né l'altro, avanti, chi era avanti? Vabbè, tu, io ti saluto là, e vado a portare il carro, se no poi mi portano la pizza e la mangio a fare a casa. Andave a tu, andave a tu, stammi bene, buona serata e buona domenica, ci sentiamo, dai, andiamo, dai. Adesso mi devo informare, perché cosa mi stava accennando che dice che pure non si può uscire, domani devo andare al Ghero, grazie, poi dice che non si può uscire fuori dalla città. Dopo le 22 già, informati però, perché non lo so esattamente, se dalle 18 alle 22 c'è qualche altro decreto che ha fatto il sindaco, capito? Non lo so, informati bene per non sbagliare. Dopo le 22 no, devi essere motivato. Ma dalle 18 alle 22 non lo so che cosa c'è, informati, perché c'è qualcosa che non mi convince per quanto riguarda gli spostamenti, non lo so. Se ci vuole l'autocertificazione, non lo so, informati già. Poi viene a chiamare il comando dei vigili e glielo dici. Stavo dicendo, ma quell'antenna che c'è in via Pascoli, dove c'è la frutta e verdura, attaccata alla frutta e verdura lì all'angolo, via Pascoli, via Sicilia, di chi è? Pascoli, via Sicilia. Non te lo so dire. Via Pascoli e via Sicilia, va, decidi di dove, via Pascoli e via Sicilia. Dove abitavo io, di fronte a me, c'era frutta e verdura all'angolo, dove prima c'era la banca, dove c'era lì, attaccato, vabbè, c'è un'antenna VEU, che so di chi è, e poi c'è anche l'antenna 27, Gare, un altro nuovo? Ah, non lo so, non lo so, e ho capito, per andare da Puti, che lì, quella non è via Sicilia, vabbè, è via Sicilia, quella ancora non è via Sicilia parte dall'incrocio, mi pare. Cosa stai dicendo? Mi pare che si l'ha dimenticata a agosto, non l'ha tolta. Forse ho capito che stai dicendo. No, è nuova, ci abita un radioamatore lì, già lo so chi ci abita, però non vorrei che abbia messo anche l'antenna 27. Va bene, giusto per capire, per sapere un pochino dai segnali, dalle cose, vai. Ci informeremo, vado a portare il cane, ciao a tutti. Ciao, cosa vado anch'io. Ma ogni tanto ne spunta una nuova. Ne ho vista anche un'altra, se non mi ricordo dove, l'altro giorno vicino a casa, si vedeva da casa, si vedeva l'antenna. E di che cavolo è quella lì? Ogni tanto ne spunta una, spunta la luna dal monte. Quel punto lì, comunque, che si dovrebbe vedere, mi sa che è quella di Giuseppe, che non l'ha tolta. No, quella di Giuseppe è via Coso, via Bonarutti. Dove abitava Matteo Raimondo, Giolina, Giorgio di Zelli, attaccato all'angolo, fai l'incrocio tra via Sicilia e via Montella, attraverso la strada all'angolo c'è la frutta e verdura, chi sa che pone tutto in altro marciapiede, in chivi, di fronte dove abitavo io, ok? Attaccato c'è un radioamatore lì che so chi è, ok, non vorrei che abbia messo anche l'antenna della 27, questo te lo dicevo. Quasi. Era un ex CCB, conosciutissimo, quindi, vabbè, comunque mi informerò se ha messo l'antenna 27, perché l'ho vista stamattina. Dai, vado a portare il cane, Gianni, vai a portare il cane che sono 9.25, ciao a tutti. Ciao. E adesso 25 minuti e sto andando. Boh, non lo so. Non lo so. Non lo so. non so chi sia, ma ce l'ho presente. Io via Petromica non ve la goggio. Chissà di sapere, no, ma sapere ancora verrà. No, sapere, la torta è venduta. Ti mando un audio, Gianni, tienitelo per te, ok? Ti mando un audio e ti dico chi c'è lì. Ma non ce l'ho presente io. Come lì c'era prima la banca, poi è subentrato quello della frutta e verdura, e se lì sopra non l'ho mai vista. Sarà forse chi ci entra dura la stadina. Come te? Ci ho entrato la stadina. Boh, non l'ho sentito io. Non lo so. Io lo so. Care. Chiama tu. Buonasera Giulio. Ok. Io lo so che è, ma non lo dico. Ciao Giulio. Ciao già. Vabbè, dai, continuate. Cos'è che stai dicendo giù? Io lo so chi è, ma non lo dico. E se lo sei tu fuori, che se non lo so io che radio amatore. Ho mandato un audio a Gianni e gli ho detto appunto non dire niente il 27. Dove gioco, guarda, non ti preoccupare. Ciao, vado a portare il cane. Ok. Stavo parlando poco fa. Vabbè dai, ci sentiamo, ciao. Ci stavi parlando poco fa sul 20? Yeah. Hai visto? Che sono attento io. Lo so. Perché? Hai sentito mi hai sul 20? Già ti ho sentito, non ti preoccupare. Cioè tu, lui e anche un altro radioamatore. Vabbè, stanno a portare il cane, ciao, mando laterale, ciao. Ok. Va bene, dai, ci sentiamo, ciao. Comunque è da molto tempo che abita lì adesso. Va bene, ci sentiamo, ciao Claudio, ciao Antonio e ciao Gianni. E anch'io me ne scendo giù, tanto è già l'una, cioè sono già le 8 meno 20 circa, per cui magari anticipiamo la cena anche. Ciao. Non so che abita da tanto lì, non potevo montare l'antenna perché c'era un problema al tetto, so tutto io. Ciao Giù, ci sentiamo dopo. Lo so, quando era CB ci frequentavamo anche, per cui si può immaginare. Mi ha fatto molto piacere per sentirlo dopo tanti anni, veramente mi ha fatto molto molto piacere. Abitava Recreddo tanti anni, quindi si è trasferito lì e aveva problemi col tetto e quindi non poteva montare le antenne. Ma io ho detto, ma voleva ce l'avevate vista, perché l'altra antenna l'ho vista, ma quella l'ho vista stamattina, quindi non pensavo che avesse montato anche quella lì, capito? E già fa piacere anche a me che la gente se li avvicini a questa frequenza, ma molti non la pensano come la pensiamo noi, o come la penso io. Dai, vado a portare il cagnone, ciao! Ok, ciao, alle prossime. Certamente sì, eppure le persone serie bisogna tenerle anche in considerazione, io la penso così. Vabbè dai, ciao a tutti e tre, ci sentiamo, ciao, anch'io me ne scendo giù e così incominciamo ad accelerare la cena, dai, ciao. Ciao Giù. E per me non c'è un problema, se vuole venire a fare una chiacchierata, per me sono tutti bene accesi, ci mancherebbe altro. Anni, ci sei? Giulio, è chiuso? Ciao Antu, ho salutato, sto scendendo giù per la cena, dai. Ci sentiamo domani eventualmente se coincide, ok? Ciao Antu, buona cena quando la fai, ciao. Sì, ho già mangiato. Ok, ciao. Ciao Antu, comunque mi sembra che sei molto goloso, no? Ti piacciono le paste, anche a me, devo essere sincero, anche a me mi piacciono molto. Tutti i dolci, non solamente le paste, tutti i dolci. Io li ho sempre mangiati e sto sempre continuando a mangiarli, per cui va bene, dai, ciao. Comunque voglio fare una piccola precisazione. Dei Muritu, il più bravo pasticcere dei Muritu era Fausto, che purtroppo è morto già tantissimi anni. E poi c'era Gavino, che è il fratello maggiore, dei Muritu, anche lui molto bravo, anche lui, come pasticcere. E sicuramente i figli hanno imparato da Gavino e saranno senz'altro bravi anche loro, non ci sono dubbi. E hanno fatto quella bella pasticceria che c'è lì in via Pascoli, molto bella. Va bene, sono contento per loro. Ciao. Ciao Giulio, sono artisti, sono. Ok, dai, ce la risentiamo. A tu, ci sei? Chi è? avanti, chi è?